senatore Adriano Bompiani per questa citazione. Noi approfittiamo della sua presenza, come dicevo prima, per ascoltare una breve comunicazione che intenderà rivolgerci, che poi è un'informazione, e abbiamo l'occasione anche di porre domande, ecco, su come funziona questo comitato che ci rappresenta. Siamo italiani, quindi ci rappresenta in qualche modo. Grazie. Io voglio ringraziare Don Lorenzetti non solo di questa splendida occasione che ci ha dato di riflessione su uno degli apporti fondamentali alla bioetica che viene, nonostante tutto, dato ancora dalla teologia. Dico nonostante tutto perché nel mondo moderno e soprattutto nelle commissioni ministeriali la teologia sembra molto ma molto lontana, e quindi era per me doveroso anche recepire tutti i messaggi, le valutazioni che vengono mano a mano fornite da questa, io direi, branca del sapere. Voglio intenderla come una disciplina, ecco, una disciplina vera e propria, che quindi può concorrere a formare l'opinione comune, valida per la società e per l'orientamento anche giuridico e politico. E poi lo ringrazio per avermi chiesto di informarvi un po' sull'attività del Comitato. Credo che anche questo sia doveroso da parte mia, perché non solo molto cortesemente Don Lorenzetti dice ci rappresenta, il che è molto ma molto parziale, ma non c'è dubbio che, essendo un organismo che giustamente Bondolfi l'ha chiamato governativo, perlomeno nell'ambito dell'area diciamo statuale, è indubbiamente ha una posizione di notevole responsabilità. E la posizione di responsabilità non si esplica solo con riflettere ed emanare eventuali pareri, direttive, mozioni e così via, cioè con tutti gli strumenti con i quali può agire un comitato, ma si esplica anche nel sentire, nel recepire ciò che viene dagli studiosi, ciò che viene dal popolo, perché c'è anche una voce popolare su queste questioni, cioè c'è un orientamento spontaneo della gente, e quindi c'è anche questa dimensione di cui noi dobbiamo tener conto. E dobbiamo in qualche modo fare un po' la sintesi fra tutti questi valori, direi così. Dico questo perché è indubbiamente un'organizzazione che nasce con una finalità politica, cioè di quella di mettere in correlazione questo vissuto delle preoccupazioni popolari sul problema della bioetica in generale, che si esprimono con il doppio aspetto, come credo in tutti i paesi, da un lato della ammirazione per la scienza e dello stupore per quanto riesce a fare, cioè delle conquiste della scienza, e dall'altro invece il timore del debordamento della scienza verso la manipolazione, cioè l'assoggettamento dell'uomo poi a fenomeni, diciamo, perversi della scienza. E questo che noi ci portiamo dietro ormai dall'era atomica si è travasato, appunto, come tutti siamo consapevoli, anche nell'era dell'ingegneria genetica. Ed è questo il fondamento, credo ultimo, che ha mosso anche il Parlamento, il Governo, ad attivare questa commissione. Precedenti. Beh, precedenti ce ne sono già parecchi in Italia, di commissioni però parziali, come in altri stati in cui, diciamo così, la struttura dello Stato fa sì che sia il Parlamento e il Governo nel loro dialogo a prendere le decisioni politiche. E così anche in Italia si è adottato il metodo delle commissioni ministeriali, in genere ministeriali, cioè fatte a livello di singoli ministeri o tutt'al più con la collaborazione di due ministeri, per studiare certi problemi. Queste commissioni in generale sono fatte da tecnici, chiamando tecnici gli esperti, e dei burocrati, che sono fra loro mescolati, proporzioni diverse a seconda della volontà del ministro, a seconda dell'oggetto che si deve studiare. Queste commissioni rassegnano un parere al ministro, il quale ha nella struttura dello Stato italiano tutta la facoltà di metterlo nel cassetto e lasciarlo lì, oppure di portarlo avanti facendo una proposta di legge di tipo governativo, oppure così via, inviarlo al Parlamento sotto forma di una relazione, eccetera, eccetera. Un po' alla volta sono nati invece nei vari stati degli organi permanenti. Per primo sono stati gli Stati Uniti, come sapete tutti, che hanno attivato queste commissioni permanenti per lo studio di questi problemi, commissione presidenziale, eccetera, eccetera. Anche questa mista, cioè, ha lavorato per un certo numero di anni, poi è stata sciolta, poi è stata rinnovata, cioè c'è anche in questi altri stati questa flessibilità un po' di posizione. In generale tutti i governi non vogliono assumere delle posizioni troppo definite che poi, per legge, che possano domani impedire una certa flessibilità di comportamento, preferiscono agire con strumenti delegificati, cioè con la nomina di commissioni, basta un semplice decreto del ministro per nominare una commissione, non c'è bisogno di una legge parlamentare. Poi c'è stata un po' la tendenza francese è quella che ha fatto un po' ruotare l'ottica, diciamo, la filosofia, la ratio di queste imprese, e cioè la nomina di una commissione del Presidente della Repubblica proprio per i problemi bioetici. Questo è stato un punto, credo, politicamente molto rilevante, perché ha fatto comprendere all'opinione pubblica, perlomeno europea, ma in generale mondiale, che questi problemi sono talmente importanti nella vita della società moderna e postmoderna, se voi volete, da richiedere un organo, chiamiamolo così, permanente di valutazione. E questo organo permanente di valutazione, secondo Mitterrand, deve essere al massimo livello possibile, cioè presso la Presidenza della Repubblica. Questo ha trascinato poi la Spagna con un comitato permanente, ha trascinato forse l'Inghilterra in parte, la commissione Warnock è stata sciolta, però dopo la commissione Warnock è nato un organo vero e proprio dello Stato che in qualche modo è un'agenzia che autorizza o non autorizza esperimenti, compresi anche gli esperimenti sugli embrioni, quindi è qualche cosa di più, cioè dalla commissione Warnock si è passati a, in base ad una legge che è stata promulgata proprio in Parlamento, all'istituzione di questa agenzia con caratteri di, diciamo, di verifica e anche di permissibilità di determinati esperimenti purché siano autorizzati dallo Stato. E voi capite che allora la questione è molto diversa, perché tanto più alto il livello in cui queste commissioni agiscono e tanto più forte la responsabilità che assume lo Stato. E se da una commissione puramente consultiva, come nonostante tutto è quella francese, si passa a un'agenzia di Stato che stabilisce che cosa si deve fare, quanti sono i laboratori autorizzati per far questo o per far quello, c'è un registro di questi laboratori, c'è il registro delle persone autorizzate, cioè dei competenti, e c'è un indice che viene pubblicato, siamo già mi pare al terzo o quarto rapporto, io l'ho ricevuto mi pare il terzo l'anno scorso, ma penso che ce ne sia già un altro, delle autorizzazioni e degli esperimenti che sono stati autorizzati, compresi quelli sull'embrione, e voi capite che lo Stato si trova immediatamente coinvolto, e direttamente coinvolto, perché c'è un criterio autorizzativo. E questa è una parte della bellissima relazione che abbiamo ascoltato giusto stasera, poco fa, professor Bondolfi, che andrebbe forse aggiunta alla sua relazione, cioè qual è il grado di libertà dello Stato di fronte a problemi di questo tipo che avanzano nella società e fino a che punto può omettere di interessarsene, e se allora è preferibile avere una legislazione minima di permissibilità e nello stesso tempo di controllo, in qualche modo contro gli abusi possibili, o se viceversa conviene, in base a principi che potrebbero essere di un'etica assoluta, non intervenire in queste materie lasciando solo alla coscienza dei singoli intervenire o non intervenire. Questo è il grosso problema che c'ha sempre poi il parlamentare quando deve affrontare questa questione. E problema che si presentò allora a noi nel 78 quando si fece la legge sull'interruzione di gravidanza, che si è presentata in tutti i parlamenti, che continua a ripresentarsi, cioè che cosa deve fare il potere pubblico nei confronti di queste attività. Deve regolamentarle, deve proibirle, deve lasciarle libere, con tutte le difficoltà che da questa decisione possono comportare. Allora, per ritornare ai precedenti, Cito, una commissione che fu nominata ancora dal Ministro della Ricerca Scientifica sulle biotecnologie intese come pericolo e controllo ai fini industriali. Questa è una commissione di cui si è saputo ben poco, risale a qualche anno fa, 6-7 anni fa. E da questa nacque però un programma di ricerca in biotecnologie, anche in Italia, con finanziamento. Ci sono dei fondi iscritti e ci sono dei laboratori che hanno avuto finanziamenti per lavorare nelle biotecnologie. In generale a carattere industriale, in generale si occupano di problemi botanici, direi così, sui vegetali o sulla produzione in laboratorio di sostanze utili, ormoni, aminoacidi e così via. Quindi è la classica biotecnologia utilizzando Bacterium coli, modificando, introducendo messaggi genetici nel Bacterium coli e così via. Quindi questa, direi così, è stata una tipica commissione per lo studio di certi parametri. Poi è venuta la commissione Santo Suosso, che è stata la più nota, che conoscete tutti, cioè ministro De Gan incaricò di mettere a punto i problemi giuridici ed etici che nascevano dalle pratiche di inseminazione artificiale, compresa l'inseminazione eterologa, omologa ed eterologa in vivo, e le eventuali espansioni verso la procreazione in vitro, cioè la FIVET e altre tecniche. Ecco, la commissione Santo Suosso lavorò intensamente, era una commissione composita fatta di ginecologi, di giuristi, di medici legali e così via, e dette due pareri, un parere di maggioranza e un parere di minoranza. Il parere di maggioranza ammetteva l'inseminazione omologa in vivo e naturalmente non poteva poi, sulla base del puro e semplice diritto, compreso il diritto di famiglia, oltre che il diritto costituzionale italiano, cioè l'articolo 30 e 31 riguardante la famiglia, articolo 32 riguardante la tutela della salute, che viene interpretata giuridicamente nello Stato italiano come la salute in senso globale, e quindi ricomprende anche la salute psichica, e quindi ricomprende anche la tutela domani dell'eventuale procreazione in coppie sterili artificiale, sotto l'aspetto del diritto, se e in quanto possa rientrare nella tutela della salute, vista sempre, intendiamoci, non come un diritto, ma casomai, qui andrebbe sviluppata, perché poi probabilmente l'avremo questa discussione in Parlamento, il criterio del cosiddetto diritto derivato, non solo del diritto primario, ma del diritto derivato, perché se si ammette il diritto alla salute intesa nella sua globalità, ecco che poi, questo articolo della Costituzione, ecco che ne può derivare il diritto derivato anche dell'ottenimento di quei mezzi atti a curare tutte quelle forme che interferiscono con la salute, compresa quella psichica. Quindi anche un diritto alla procreazione artificiale in qualche modo. Quindi è un argomento estremamente delicato, ma appunto sulla base della Costituzione porterebbe a questi effetti. Dette un parere poi di minoranza che accettava anche appunto l'inseminazione eterologa, non accettava la manipolazione embrionale, non accettava i casi, la sperimentazione sull'embrione, e accettava invece il principio della fecondazione eventuale in vitro di tanti embrioni quanti potessero essere poi trasferiti in utero. Quindi in qualche modo era rispettoso, questo già nella Santo Suosso, sia parere di maggioranza come di minoranza, rispettoso perlomeno di questo diritto alla vita, diciamo, dell'embrione. Qual è stato il recepimento parlamentare della Commissione Santo Suosso, del rapporto Santo Suosso? Beh, quello di minoranza è stato ritenuto insufficiente, perché molte forze attive, appunto il Parlamento, sono per l'allargamento delle indicazioni. un'ala estremista ha ritenuto che legare tutto alla terapia, che era il principio cardine dal quale si era ispirato Santo Suosso, sia nella relazione di minoranza come di maggioranza, perché anche quella di minoranza riguardava solo la terapia, dico una piccola falda, diciamo, di minoranza del Parlamento, ha ritenuto che venissero a essere compressi, diciamo così, dei diritti di libertà delle persone, diritti della donna, e quindi evidentemente non ha voluto accogliere questa possibilità, rivendicando la libertà di procreare anche al di fuori del matrimonio, anche al di fuori di un legame stabile e così via, cioè tutte le questioni che sono state accennate anche da Pondolfi prima. Un secondo errore, direi così, che ha fatto quella commissione è stato quello di fare un articolato molto preciso, perché facendo un articolato molto preciso è evidente che qualsiasi persona attaccandosi ad una parola piuttosto che all'altra sostiene che quell'articolato non è valido e quindi non può essere accettato dal Parlamento. Insomma, il Parlamento si è visto un po' espropriato anche delle sue possibilità. Quindi è rimasto nel cassetto poi di Degan questo documento, anche se se ne è data ampia divulgazione, sono stati fatti 2 o 3 convegni, c'è cioè, carta stampata abbondante, soprattutto dei giuristi, il convegno fatto a Verona tra Bucchi, così via, che l'altro Ascone Carleo, un libro, una monografia su questi documenti, quindi c'è ampia esperienza, direi così, già di queste proposizioni. Poi c'è stata una mini commissione che si è prodotta e sciolta, fatta da Don Accattin nel giro di 24 ore, che doveva essere per l'accertamento della morte, ma fu proprio così fugacissima, anche perché c'erano degli errori di composizione tale per cui si sciolse poi in pratica, non se ne fece niente. E allora arriviamo al dibattito parlamentare che c'è stato intorno all'89, invece in Parlamento, alla Camera dei Deputati, su alcune mozioni parlamentari riguardanti la tutela della vita. Nel frattempo il Parlamento europeo aveva prodotto quei 2 documenti molto importanti, il rapporto Rothley e il rapporto Casini. Da qui nasce poi l'attività parlamentare italiana. C'è la possibilità di recepire, e fu anche giusto, il tentativo di recepire immediatamente questi rapporti, Rothley e Casini, con una proposta che esiste ancora in questa 10ª legislatura, anche se ormai volge alla fine, penso, una proposta per la tutela dell'embrione che fu presentata proprio esplicitamente da questo gruppo di parlamentari legati al Movimento per la Vita e così via. Ci fu un ampio dibattito e questo dibattito portò appunto a una mozione votata per parti separate. La parte fondamentale che istituiva, che chiedeva al governo di istituire un comitato etico nazionale per lo studio di questi problemi fu votata all'unanimità. Circa poi i contenuti da dare al resto, diciamo, della mozione, le indicazioni di funzionamento, eccetera, fu votata evidentemente per parti separate, non tutti concordarono su questo, diciamo, desiderio di avere un comitato che tutelasse la vita fino alle ultime conseguenze, quindi ci si spaccò poi in Parlamento sui particolari in qualche modo, però tutti convennero sulla necessità che vi fosse questo comitato nazionale che in qualche modo mettesse a fuoco i problemi etici ai fini anche di fornire indicazioni al legislatore per un'eventuale normativa a riguardo, ma vedete in una maniera molto indiretta, al fine di fornire anche indicazioni al legislatore, cioè non chiedeva una proposta legislativa, ma chiedeva una riflessione etica e noi ci siamo attenuti a questo. Dopo circa un anno, superate varie difficoltà, il governo ha deciso di attivare questa commissione e allora ha chiesto a 3 ministri, ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica, il ministro per la Sanità e il ministro per gli Affari Sociali, di fornire una rosa di nomi. Sono stati forniti, ciascuno di questi ministri ha fornito circa il doppio dei nomi che poi sono entrati nella commissione. E evidentemente come esperti presi dal mondo, diciamo, della cultura in vari settori. E poi da queste rose di nomi è venuto fuori una composizione di 36 membri, direi così, nominati e 4 membri invece di diritto. I 4 membri di diritto sono il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, cioè 4 istituzioni che in qualche modo già si occupano di questi problemi. Anche questo per la necessità di un coordinamento. Tre medici legali, 5 esperti di diritto, 2 filosofi, 2 sociologi, 2 eticisti, chiamiamoli così, dei quali uno è religioso e l'altro no, un genetista, un medico, un chirurgo, un esperto di storia delle scienze, un andrologo, un anestesista, un pediatra, 2 farmacologi e un oncologo. Quindi vedete un'estrazione amplissima. Scelti come? Beh, intanto in base appunto a queste competenze di ordine professionale, sono tutti docenti universitari, e poi scelti logicamente da 3 ministri diversi a seconda una rosa di preferenzialità che denota anche un certo indirizzo ideologico, secondo i vari ministri che hanno fatto queste proposte, ovviamente. Comunque tutte le aree in qualche modo sono rappresentate, da quelle più vicine all'area cattolica a quelle più vicine all'area, diciamo, laica. È difficile dire quale sia adesso la predominanza dell'uno o dell'altra linea, però non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte a una commissione che potrebbe essere rappresentativa dello stato sociale, direi così, e del pensiero riguardo a questi problemi. E abbiamo cominciato subito a lavorare con grandissime difficoltà, ormai abbiamo un anno alle spalle di lavoro perché abbiamo cominciato in giugno. Difficoltà perché non abbiamo autonomia finanziaria, noi siamo appunto una commissione della Presidenza del Consiglio nominata in base alla nuova legge sulla Presidenza del Consiglio, che consente come organi appunto accessori ma transeunti, quindi a durata prevista, e noi siamo quelli che potranno funzionare fino a tutto il 92, dopodiché finisce il nostro mandato, salvo poi essere rinnovato, essere cambiata la composizione, tutto questo è aperto, e appunto questa legge sulla Presidenza del Consiglio dà questa opportunità al Presidente del Consiglio di crearsi le sue, diciamo, il suo organo di informazione, ecco, culturale su determinati problemi. Come esiste la commissione, non so, per la parità uomo-donna e così via, così esiste anche questa commissione. Scopo? Beh, il mandato è molto preciso, adesso non sapendo di dover parlare, non ho con me lo statuto, ma appunto è quel il mandato che ha conferito il Parlamento, cioè studiare i vari problemi etici che si pongono nei confronti delle tecnologie biomediche in senso lato e della biotecnologia in particolare, nei confronti poi di un eventuale suggerimento da dare al legislatore per determinate leggi. Come l'abbiamo affrontato? Beh, l'abbiamo affrontato anzitutto ponendoci per prima cosa un regolamento, e devo dire che abbiamo fatto molto presto e molto bene questo regolamento. Se pensate che la stessa Commissione Etica francese non ha ancora adesso un regolamento a 8 anni dall'attivazione, cioè pare che sia stato molto difficile in Francia fare un regolamento, invece noi ci siamo riusciti con 2 punti, diciamo, di forza. Prima di tutto noi lavoriamo con una programmazione interna della Commissione che valuta con libero dibattito quali sono gli argomenti da affrontare, cioè non siamo pronti a ricevere le sollecitazioni volta a volta del pubblico, come avviene in Francia. In Francia qualunque cittadino può scrivere alla Commissione che gli dia un parere, questo sarebbe stata una maniera per disperdere le nostre possibilità. Quindi una programmazione interna. Secondo, nell'ambito del mandato ricevuto l'abbiamo cercato di interpretare nella forma più ampia possibile, cioè la tutela della vita in senso ampio. E quello che può fare il legislatore nel porsi alla tutela della vita in senso ampio, quindi non ristretto solo alle biotecnologie ma anche agli altri capitoli, diciamo, dell'etica, e questo ci ha consentito subito di, per esempio, di entrare nella definizione e accertamento della morte dell'uomo, nell'uomo, per avere poi dopo strumenti anche per il problema dei trapianti e così via. Terzo, tendenza, volontà comune a ricercare il massimo comune denominatore etico nelle varie posizioni, questo detto proprio esplicitamente nel regolamento, fin dove è possibile, però con riserva, e non potrebbe essere diversamente, di ciascuno o di gruppi che si possono formare, gruppi di pensiero che si possono formare nell'interno della Commissione, di esplicitare nella maniera più chiara il proprio punto di vista etico anche in dissenso della relazione di maggioranza. È evidente che noi dobbiamo assicurare anzitutto la libertà di espressione, non solo perché è un fatto etico, ma anche perché è prevista dalla Costituzione italiana. Quindi qualsiasi documento noi possiamo, fin dove arriviamo, andiamo avanti all'unanimità, e devo dire che i primi due documenti sono stati redatti all'unanimità. E dove non sarà possibile, e ci sarà una relazione di maggioranza e una relazione evidentemente di minoranza, non può essere diversamente, però con l'intesa di ricercare il massimo comune denominatore etico. Questo presenta dei vantaggi e presenta degli svantaggi, e in quella filosofia dello Stato pluralistico e anche di un'etica vista, diciamo, in qualche modo al servizio anche del bene comune, non semplicemente vista come espressione del proprio convincimento etico in senso dottrinale, in senso puro, ma anche del bene comune. Tenuto conto che il legislatore deve tenere presente l'interesse diffuso, l'interesse comune, oltre che il bene comune. Non è detto che il bene comune sia sempre equivalente all'interesse comune o all'interesse diffuso, quindi ci sono anche delle differenze che bisogna qualche modo tenere presente, e noi non dobbiamo fare, diciamo, un'opera di dottrina assolutamente, anche se i problemi dottrinali verranno certamente fuori e sono venuti già più volte, ma dobbiamo fare invece qualche cosa che serva. Certo, il rischio è che si attenui la forza etica di certe posizioni e si vada verso un compromesso, questo è evidente, e quindi la vera difficoltà, come del resto c'è in tutti i comitati etici, è proprio questa, che non ci sia un'etica di compromesso, compromissoria, un'etica d'avvicinamento che vada a far perdere forza all'etica di riferimento. In ogni modo abbiamo proprio convenuto che tanto più noi siamo precisi nella espressione, magari a maggioranza o minoranza, dei nostri pareri etici, tanto più noi salvaguardiamo anche l'eticità del documento. Quindi questo sarà un punto di regolamento che verrà molto bene, credo, rispettato. Ci siamo divisi in gruppi di lavoro, liberamente. In genere i gruppi sono sempre fatti con la presenza di tutte le competenze possibili, cioè almeno un giurista, almeno un medico legale, almeno un sociologo, cioè cercando di distribuirci in modo che ci siano sempre le competenze su ciascun problema. I gruppi sono attualmente 5. E hanno affrontato, uno, tutti i problemi delle biotecnologie in generale. Il primo documento è quello della terapia genica. Perché? Perché abbiamo ritenuto che fosse urgente entrare sull'argomento. Tanto perché si poteva dire qualche cosa che in quel momento non era stato ancora detto né dalla Francia né da altri paesi, nemmeno dalla Germania, quando abbiamo cominciato a lavorare. Secondo, perché era nell'aria il primo esperimento di terapia genica negli Stati Uniti, e terzo perché sembrava imminente anche l'esperimento italiano, quindi volevamo arrivare anche in tempo per dare un'indicazione. L'esperimento italiano non c'è stato ancora, l'esperimento degli Stati Uniti c'è stato, pare che i primi risultati siano buoni e così via. Adesso non sono in grado, diciamo, e nemmeno c'è il tempo di ripercorrere tutto il documento, però insomma le linee fondanti sono queste, quelle già emerse stamattina e poi nel pomeriggio ribadite, cioè sì alla terapia genica somatica, non c'è nessun problema a questo riguardo, anzi c'è un invito in qualche modo, cioè noi ci vorremmo porre su questi problemi in generale delle biotecnologie, di questi processi della biomedicina in senso positivo, non in senso negativo, cioè, cioè con un certo ottimismo. Perché? Perché la comunità degli scienziati va avanti, indipendentemente dai nostri pareri, questo va subito detto in una maniera più precisa. È molto difficile fare una regolamentazione negativa, giuridica, di questi processi. Il caso dell'Inghilterra lo dimostra, ma non è solamente l'Inghilterra, la Francia lo stesso, e tanti altri paesi, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Forse è in Germania che si riesce a ottenere una maggior forza vincolante dalle leggi rispetto agli altri paesi, ma è anche molto difficile fare le leggi, non so nemmeno se in Germania ci si arriverà poi una legge vera e propria, e come farla rispettare è sempre il problema vero. Quindi mettersi in una posizione di, diciamo, relativo ottimismo, quindi sì per la terapia genica, nel senso vero della parola, sulle cellule somatiche. Abbiamo discusso a lungo la questione della terapia genica su cellule germinali e sull'embrione, in teoria anche sulle cellule germinali oltre che sull'embrione, ma abbiamo concluso, ecco qui abbiamo trovato la mediazione in questo senso, che oggi è inattuale prendere posizione su questa perché non ci sono le condizioni scientifiche per poterlo fare con quel grado di sicurezza che rientra nella deontologia dello scienziato, indipendentemente cioè dalle posizioni di fondo, di valore, se possiamo o no manipolare un embrione, se possiamo o no modificare una linea germinale e così via, se possiamo o no agire sull'evoluzione spontanea degli organismi viventi, tutte queste cose, le abbiamo discusse anche, ma abbiamo in qualche modo accantonato, perché oggi non è, diciamo, attuale, mentre è attuale dire e sostenere che non ci sono le condizioni per poterlo fare e quindi il problema viene rinviato. Su questo ci siamo trovati d'accordo tutti e lascia aperta, logicamente, come succede per questi pareri, la possibilità tra 10 anni, 15 anni, non lo so, quando sarà il caso, di esprimerci invece in quel senso se la scienza avrà portato a quel risultato. D'altra parte, fermo rimanendo le obiezioni che ci possono essere circa la necessità di manipolare una cellula germinale o peggio ancora un embrione, rimane il fatto che se ci fosse la sicurezza assoluta che si possa restaurare il danno genico già presente a livello embrionale introducendo il gene difettoso in maniera tale da non interferire con i geni sani e non deviare lo sviluppo, evidentemente noi ci troveremmo nella credoliceità, diciamo, scientifica, etica e anche diciamo, giuridica di poter arrivare a questo traguardo, perché rientrerebbe nelle questioni della terapia. Qui noi non possiamo affrontare i problemi se la terapia deve essere sempre sostitutiva o può essere anche protesica in qualche modo, se può essere sempre riparativa o può essere appunto anche sostitutiva di funzioni, perché il problema non viene vissuto da, diciamo, nell'ambito medico in una maniera così forte come può essere appunto fra teologi o filosofi. Noi abbiamo ritenuto che in questo caso comunque si tratterebbe sempre di una terapia riparativa che si ottiene data l'elementarità, cioè perché siamo proprio alla funzione più elementare della vita, cioè molecola per molecola o amminoacido per amminoacido, spezzone per settore dell'informazione genetica, qui c'è la coincidenza fra la sostituzione del pezzo malato con il pezzo sano e evidentemente il restauro di funzione, perché o si crede o no che ci sia questa base di input, di messaggio genetico che determina le funzioni, e questo scientificamente lo dobbiamo credere perché abbiamo tutta una serie di, oppure non ci si crede, ma se non ci si crede ci poniamo fuori dalla verifica scientifica e quindi dobbiamo ragionare anche in termini proprio di biotecnologia, cioè attraverso il messaggio genetico, Perciò in questo caso la sostituzione del pezzo malato corrisponde al restauro della funzione, che non può essere diversamente. Questo credo che sia una cosa che anche sul piano teoretico vada approfondita. Per l'altro documento, definizione e accertamento della morte nell'uomo, non abbiamo avuto grandi differenze di opinioni. Prima di tutto perché abbiamo ritenuto che noi dovessimo dare delle indicazioni circostanziate delle metodologie con le quali si accerta la morte dell'uomo. Non entrare in una discussione di ordine filosofico su che cosa è la morte, perché certamente non, o storico o antropologico generale e così via, anche se questo c'è sempre nel sottofondo. Però mettere in evidenza come tutta la tecnica della rianimazione, tutta la tecnica dei trapianti, eccetera, eccetera, ormai ha messo in evidenza da più di 50 anni ormai che c'è un grado di sicurezza nella identificazione del momento in cui cessa la vita dell'organismo nel suo complesso come capacità di integrazione dell'intero organismo, e questo coincide con la morte cerebrale totale, cioè con la distruzione della parte anche più basale, diciamo, del cervello. Quindi abbiamo rifiutato un'ipotesi di minoranza che voleva invece la semplice morte corticale, e questo problema ha fiorato anche fra noi, voleva solamente la morte corticale come fine della persona dell'uomo. Ecco, noi ci siamo imbattuti subito in questo problema: che cos'è la persona? Abbiamo cercato di eliminare, proprio per raggiungere questa unanimità di punti di vista e quindi dare una indicazione di certezza sulla verifica della morte, quindi delle possibilità di accertarla poi in senso pratico, nelle corsie, nei reparti di rianimazione, proprio escludendo una discussione sul concetto di persona. Perché il concetto di persona ci avrebbe portato, ovviamente per noi è tranquillo che coincide con la persona, ma ci portava in una discussione filosofica di grande complessità. E allora abbiamo parlato sempre di vita, diciamo, individuale, cioè di vita dell'individuo, tralasciando il concetto di persona, che però vi prego in qualche modo di rivisitare, perché il problema vero rispetto alla scienza moderna e biotecnologica, anche la filosofia moderna, è proprio questo ripensare al concetto di persona in quest'altri, diciamo, termini più moderni. Credo che abbiamo espresso con molta chiarezza, diciamo, queste conclusioni, e tutto compreso mi pare che l'accoglienza sia stata positiva, non ci sono stati fino adesso perlomeno contestazioni e così via. Su che cosa stiamo lavorando? Beh, io penso che prima dell'estate riusciremo a fare un parere sulla sicurezza delle biotecnologie, cioè ci vogliamo portare anche su quel capitolo che abbiamo già cominciato ad esaminare per quanto riguarda i laboratori. Perché? Perché dobbiamo recepire la direttiva della Comunità Europea, che ormai entra in funzione a metà del 91, quindi siamo vicini, o alla fine del 91 al massimo, sulla sicurezza dei laboratori che producono prodotti tramite le biotecnologie. E questo sarà molto importante. Mi auguro che tra un mese o due possa comparire intanto il nostro contributo. Poi continueremo a lavorare nel settore invece della parte terminale della vita, sui trapianti, vedendo la parte applicativa, e cioè l'eticità della donazione, che è un grosso problema sul quale non c'è chiarezza. Tutti siamo convinti che è un bel gesto donare i propri organi, però quando al dunque troviamo moltissime remore e non troviamo un grande entusiasmo, una parte nemmeno della Chiesa, nei confronti dello stimolare questo gesto. E allora o ci si crede che la morte è quella, quando è stata così definita, e che consente ancora di prelevare gli organi in condizioni tali da poter essere poi impiegati, e allora va stimolato anche la donazione di organi. O non ci si crede, allora lo si dica chiaramente, evidentemente tutta la tecnica dei trapianti finisce, e con questo finisce il principio di sussidiarietà, di solidarietà fra gli uomini, eccetera, eccetera. Quindi è un richiamo che verrà fatto a tutti, a tutte le competenze, direi così, per prendere una posizione più chiara anche su questo argomento. In autunno penso che faremo un elaborato che già è in fase di studio abbastanza avanzato sui comitati etici, e in quella occasione vorremmo invitare tutti i rappresentanti dei vari gruppi, diciamo, che lavorano in Italia e anche lavorano all'estero se possibile, per una discussione comune su questo problema dei comitati etici, presentando anche il nostro elaborato. Noi non è che andiamo, cioè non facciamo dottrina, ecco, l'importante è che si capisca questo fatto. Recepiamo la dottrina altrui e cerchiamo di filtrarla in una maniera che sia comprensibile alla gente, perché uno dei nostri scopi è anche quello di comunicare con le persone. C'è il problema della comunicazione con i mass media, che è difficilissimo. C'è il problema di stabilire dei collegamenti anche ai fini di far maturare questi problemi. Questo è uno dei compiti che è stato assegnato al comitato. E comunque il povero comitato lavora sempre con grandi difficoltà, appunto perché non ha un'autonomia. Solo in questi ultimi tempi siamo riusciti ad avere una sede, che è una sede dignitosa, un minimo di segreteria. Non abbiamo però una biblioteca, ci dobbiamo necessariamente rivolgere adesso in collegamento con i centri già esistenti, ma questo mi pare anche giusto, è importante avere un calcolatore che ci possa mettere. Raccoglieremo al massimo possibile la bibliografia, siamo pronti a in qualche modo a venire in contatto con tutte le forze operative, proprio per cercare di diffondere anche un po' la cultura, diciamo, della bioetica, con la mentalità del partire dal problema concreto, io non dico dal caso concreto, ma dal problema concreto, per andare verso, diciamo, l'inquadramento teorico, casomai, che è il vero metodo della bioetica, partire dal caso concreto per andare verso il caso, verso l'inquadramento teorico, e non rovesciare il discorso, e quindi prendere in considerazione casi concreti, problemi concreti che si possono presentare all'attenzione anche del Parlamento e in generale dell'opinione pubblica. Incoraggiare anche la pubblicazione di linee guida che le varie associazioni scientifiche possano darsi. Noi non dobbiamo fare una linea guida per come utilizzare le tecniche di inseminazione, per esempio, però se l'associazione degli andrologi e dei ginecologi italiani fa un libro bianco, noi possiamo esaminarlo, dare un parere e sotto il profilo etico ed eventualmente sostenere o correggere certe posizioni, ma cioè è un compito più di supporto in questo, e comunque sempre rivolto con un certo sano scetticismo a considerare molto difficile una normativa vera e propria dura, mentre si può ottenere probabilmente di più, almeno in questa fase della vicenda della specie uomo nei confronti di questo problema, si può ottenere molto di più con un metodo collaborativo a rete, diciamo così, soft, piuttosto che con delle leggi molto precise e molto dure. C'è il problema degli abusi. Ecco, indubbiamente di fronte a degli abusi, come purtroppo si stanno verificando in Italia, oltre che in Svizzera, ma probabilmente sono molto più frequenti e più gravi in Italia di quanto non sia in Svizzera, in rapporto a tipologie, anche talvolta delle persone, eccetera, eccetera, e qui è probabile che allora lo Stato debba poi arrivare ad una legge. Quale legge? Qui viene veramente la difficoltà. Una legge che sia il minimo comune denominatore etico comporta comunque il concetto della autorizzazione e della registrazione di coloro che fanno queste attività. E non credo che nella condizione di democrazia che si sono sviluppate nei paesi occidentali in questo momento e anche in Italia sia possibile proibire nessuna di queste pratiche, anche l'eterologa e così via. È possibile democraticamente in un Parlamento congegnato come quello nostro, almeno in questa fase, forse regolamentare sempre, questo credo che ci siano le alleanze sufficienti, perché poi qualsiasi proposta deve trovare in Parlamento chi la sostiene, quindi una maggioranza, sia possibile ricondurre tutta questa attività nel campo di una terapia e viceversa cercare di proibire quello che può essere una determinazione libertaria del soggetto verso l'uso di queste pratiche che non sia motivato da elementi terapeutici. C'è poi un'altra questione che volevo appunto sollevare, e cioè lo sviluppo in sede dottrinale, non è arrivato ancora in Parlamento, però ci sono già le prime avvisaglie, del concetto del cosiddetto diritto progressivo, cioè un embrione ai primi stadi ha un diritto zero, a un mese ha un diritto uno, a due mesi ha un diritto tre, e questo viene concepito come qualche cosa che abbia un fondamento giuridico, quindi bisogna stare molto attenti in questa ottica del diritto della comunità, direi così, del diritto pragmatico, che deve semplicemente regolamentare certe azioni piuttosto che proibirle e così via. Quindi è un problema anche scientifico per la scienza del diritto che va messa a fuoco, se può esistere un diritto progressivo, non nel senso che si applichi, diciamo, con delle diversità, che posso dire, di valutazione come adesso nel diritto nostro, per cui le fattispecie sono ben definite, o sono possibili o non sono possibili, questo è per la certezza del diritto. Poi esiste la condizione della attenuante o dell'aggravante, che fermo rimanendo la fattispecie del diritto toglie responsabilità o toglie punibilità, per meglio dire, o l'aumenta a seconda delle circostanze, se si tratta di una... Viceversa, con il concetto del diritto progressivo voi comprendete che si viene verso quello smottamento continuo anche della certezza del diritto, a meno che non si vada a stabilire in una maniera da ragioniere, per esempio, ogni settimana di gravidanza a quanto diritto corrisponde e così via. Ecco, questo volevo dirlo perché è una delle sorprese che probabilmente verrà fuori anche con l'evoluzione, diciamo, teoretica del diritto in Italia. Noi purtroppo in Svizzera non possiamo avere degli organismi analoghi a questo per la struttura politica del nostro paese, che non ha Presidente della Repubblica, per esempio, e in cui non c'è governo ed opposizione e cose del genere, per cui per esempio l'idea di far nascere un Comitato Nazionale di Etica ha trovato subito come prima difficoltà il fatto che non ci fosse la figura giuridica di chi ci può dare il mandato. Ma queste sono difficoltà nostre interne. La considerazione che volevo fare era dovuta al fatto che quando vengo in Italia sento poco la sensibilità che su problemi che hanno il medesimo effetto, per esempio le tecniche procreatiche, pur partendo da orizzonti diversi, hanno il medesimo effetto, cioè nasce il bambino, hanno premesse tecnologiche molto diverse che, pur avendo il medesimo effetto, vanno regolate in maniera diversa. C'è per esempio, mi pare, la tendenza ancora in Italia a considerare l'inseminazione con donatore alla stessa stregua della fertilizzazione in vitro. E allora, sia sul fronte dei proibizionisti, sia sul fronte più permissivo, questo poco importa, cioè è secondario agli effetti di quello che voglio dire, c'è la tendenza a dire, bene, dato che queste tecniche tutte sono in vista di avere il figlio, o le proibiamo tutte o le permettiamo tutte, oppure le permettiamo ad alcune condizioni. Dimenticando invece quella che è la, adesso si chiama la Eigengesetzlichkeit, la legge interna stessa a queste singole tecniche. Per esempio, proibire la fertilizzazione in vitro, indipendentemente adesso dal giudizio etico che uno ne dà, è una cosa fattibile dal punto di vista del diritto, perché è una tecnica, è un'alta tecnologia, per cui un decreto di abolizione di queste pratiche provocherebbe al massimo, che ne so io, in cima allo Stelvio un laboratorio nascosto in un fortino in cui si facessero queste tecniche, comunque molto poco probabile. Mentre invece l'inseminazione da donatore non ha assolutamente nessun senso volerla proibire, perché fino a memoria d'uomo direi che lo sperma lo si può ottenere con altri metodi, indipendentemente da grandi laboratori, insomma. Per cui l'illusione di poter legiferare al riguardo proibendo per esempio l'inseminazione da donatore provocerebbe dei danni maggiori alla sua permissione. E questa forse è una mancanza di sensibilità della cultura politica e anche della cultura etica in Italia. Direi che qui c'è una responsabilità molto forte anche del mondo cattolico, cioè non è sufficiente dire alcune pratiche sono buone o non sono buone, indipendentemente da questo dibattito, capire che i rimedi vanno valutati anche dal punto di vista dei possibili danni susseguenti, ecco. Tant'è vero che da noi abbiamo avuto, dato che siamo un paese così decentralizzato, possiamo fare alcuni esperimenti, no? Ci sono stati dei cantoni che in una specie di così di fobia di proibizione hanno proibito la inseminazione da donatore, e mi ricordo ancora che il segretario del Parlamento mi telefonò per farmi fare un gutachten, una perizia a favore della proibizione. Dico, io questa non gliela faccio, ma neanche a morire. Perché? Dice, perché guardi l'orario ferroviario, quanto ci mette una donna da San Gallo ad andare a Zurigo? In tre quarti d'ora si va a fare inseminare a Zurigo, quindi ci sono le tecniche di turismo procreatico direttamente. Quello poi delle tecniche non applicate all'uomo, cioè le biotecnologie come la fabbricazione di insulina, eccetera, già adesso non penso di rivelare dei grandi segreti, comunque la Ciba Geig, la Hoffmann La Roche già ora stanno tentando di trasportare tutta la produzione biotecnologica dalla Svizzera in nazioni più sicure, perché hanno paura che ci saranno delle proibizioni. Questo evidentemente non è un argomento etico, io non posso, perché tra l'altro io non lo applico mai all'esportazione d'armi, no? Non si può dire perché il mio vicino fabbrica dei cannoni e li posso fabbricare anch'io, non è una legittimazione eticamente sufficiente. Però resta il fatto che in una strategia generale bisogna tener calcolo di queste cose, ecco. Lei citava la Germania, giusta ragione, la Germania avrà molto probabilmente la prima legge sugli embrioni in Europa, e su questo posso benissimo consentire che ci sia una legge al riguardo, però se ci fossero delle leggi per esempio chiaramente anti-industriali nel campo delle biotecnologie, penso che ci saranno degli effetti ancora più perversi. Volevo introdurre invece una serie di osservazioni che mi vengono anche da alcune ricerche sociologiche che ho in qualche modo seguito. Intanto mi rendo perfettamente conto che è molto difficile legiferare nel merito di questi problemi, però forse potrebbe essere meno difficile legiferare su alcune variabili che sono esterne al merito, ma che sono profondamente incidenti anche nel merito. Cioè, quando io leggevo di Erwin Chargaff, no? Che fa una prospettiva tutto sommato abbastanza catastrofico-apocalittica di questo tipo di ricerca, cioè, e lui è uno di quelli dei responsabili di queste ricerche, e poi dice in fondo i rimedi sarebbero anche molto semplici, e ne enuncia due. Dopo averli enunciati dice il mio pessimismo però è tale che dice questi sono utopici e irraggiungibili. Ma i due rimedi che lo suggerisce sono questo tipo di ricerca, nel momento in cui si passa poi all'individuazione e all'autorizzazione, questa premessa è importante, sono l'assoluta gratuità di questa ricerca e l'anonimato nei risultati. Ecco, dice sono due cose banalissime. Però impossibili, le dichiara, cioè il mio pessimismo dice che saranno impossibili. Io credo però che in materia, forse, in termini di realizzare delle leggi, si potrebbe effettivamente queste variabili tenerle presenti. E per quel che riguarda, collegato a questo, volevo accennare anche al discorso sulla morte, sulla decisione, che è sempre più un momento, in qualche modo, di una convenzione sociale, insomma, qualcuno stabilisce che uno è morto. Ecco. Io sto conducendo una ricerca sul comportamento medico in materia, e ho già visto 50 interviste a medici, da cui risulta chiaramente che il protetto socialmente muore dopo il non protetto socialmente. Questo nella prassi è ormai ammesso, con qualche prudenza, no, nel mio reparto veramente no, però posso dire, pure un altro di questi medici intervistati che a un certo punto dice effettivamente io ho visto un espiantato reagire al bisturi, ecco, per esempio. Sono sempre di queste affermazioni che mi fanno un po' raggelare, insomma, no? Mi fanno qualche impressione. Ecco. Per cui anche qui sono variabili non di merito, ma sicuramente che vale la spesa tenere presente, e credo che si sia cominciato già un pochino almeno a intuirle queste. Non so che l'equipe che spianta deve essere un'equipe diversa da quella che diagnostica la morte, che dichiara la morte, eccetera. Insomma, almeno queste distinzioni credo che vanno veramente tenute presente, perché se no effettivamente questo meccanismo dei trapianti, anche per le implicazioni di cui sopra si diceva, insomma, cioè che solo sia dal punto di vista così della resa economica remunerative, sono diventati un business piuttosto grosso, e della resa che è legata a questa anche del non anonimato, cioè del prestigio dell'equipe, dei medici trapiantatori, che poi hanno un suo riflesso sul mercato, in dubbio, no, sono tutt'altro che insignificanti. Ecco. Brevi osservazioni. La prima riguarda questo atteggiamento della Chiesa nei confronti del problema del trapianto. Qui adesso è molto marginale l'osservazione perché è un tema grosso, però c'è stata molta reazione a queste prese di posizione, soprattutto recenti, di richiamo alla vigilanza, alla prudenza, alla iperprudenza, eccetera. Mentre invece si è ignorato che la stessa Chiesa in altre situazioni, in altre condizioni, si è espressa in maniera molto positiva nei confronti della cultura del dono nei trapianti. Qui è anche la nostra maniera di pilotare le informazioni anche all'interno della Chiesa. Un discorso del Cardinale Ratzinger ha avuto una grande rilevanza, un documento delle Chiese cattoliche e protestanti insieme in Germania federale per incrementare la cultura del dono ha avuto molto meno risonanza. Recentemente la rivista Settimana, la vostra rivista, ha dato notizie, mi piacerebbe vedere anche eventualmente la possibilità di avere il testo originale, che i vescovi del Cile hanno fatto un documento per incitare appunto a una cultura del dono. Cioè, voglio dire, la Chiesa è anche molto variegata, per cui accanto a una espressione di iperprudenza o di prudenza convive in questa Chiesa anche l'espressione di una oblatività, insomma. Grazie delle vostre domande. Circa la prima, io vorrei, condivido quanto diceva il professor Bondolfi, vorrei far presente che molte volte, intanto il concetto, diciamo, teleologico, cioè il fine da raggiungere è buono, quindi indipendentemente dai mezzi cerco di raggiungerlo, è quello predominante nella medicina corrente e anche in questa medicina d'avanguardia. Cioè ci si pone molto meno la valutazione del come si raggiunge, della moralità del mezzo. È una realtà. Il fatto è che non si osserva sempre anche la giustificazione medica dell'indicazione. Cioè molte volte si corre subito al metodo eccezionale quando ancora non si è sperimentato il metodo regolare, diciamo. È una progressione, dovrebbe essere il montaggio del caso anche nella terapia, prima la terapia di ripristino, poi dopo casomai la terapia eroica, chiamiamola così, di sostituzione protesica, diciamo, in qualche modo. Purtroppo questo c'è poca diffusione di questo concetto, e qui può essere anche vero che finché rimane nell'ambito della pratica privata la stimolazione al guadagno è una forte sollecitazione a saltare altre tappe e arrivare subito alla tappa più lucrosa. È anche vero che ci sono delle forme ancora poco note, cioè idiopatiche, di sterilità, che sembrerebbe possano essere risolte solo con questo metodo. E allora è lo studio diagnostico precedente che dovrebbe essere fatto molto accurato. Però anche se viene fatto, poi alla fine, mettiamo dopo 2 anni, 3 anni di tentativi, eccetera, rimane questa estrema razio. Allora, l'estrema razio diventa il raggiungimento a tutti i costi del fine, e si forma un'alleanza tra chi lo vuole e il medico, che lo desidera anche lui in qualche modo. Il fatto è che molte volte poi la strutturazione di questi laboratori viene compiuta intanto con fondi per la ricerca, e quindi come tale non è soggetto a nessuna verifica da parte di nessuno, perché per la ricerca, sapete, c'è anche c'è una libertà garantita dalla Costituzione, la scienza è libera, il libero nell'insegnamento. Secondo questo panorama, anche le ricerche biomediche applicative hanno questa specie di esenzione, e per questo mi rende molto perplesso sull'efficacia di una legge. E poi talvolta mi si dice sono stati organizzati anche dei laboratori del genere, è stato acquistato il materiale, per esempio quello dei contenitori per lo sperma, per la conservazione, per la donazione eterologa, eccetera eccetera, che sono dei contenitori che vengono importati da altri paesi perché in Italia non si fabbricano, eccetera, da certe caratteristiche, sotto una voce diversa, cioè come contenitori da laboratorio a bassa temperatura, oppure sono stati autorizzati per la fecondazione artificiale veterinaria e poi dopo sono stati passati alla fecondazione medica, cioè sull'uomo. Quindi evidentemente c'è sempre il modo di aggirare le leggi, e questo va in qualche modo fatto presente, a meno che appunto non si arrivi all'estremo dell'agenzia che in qualche modo tiene il registro dei centri autorizzati, tiene il registro delle persone autorizzate, che sono evidentemente autorizzate in base ad un'esperienza, capacità acquisita, studi sostenuti, eccetera eccetera, e punisca chiunque venga colto ad operare al di fuori di questo registro. Con il che però arriviamo al criterio inglese, cioè è lo Stato che si assume questo. E allora ecco che viene fuori anche la gratuità, come si diceva. Ora, l'anonimato è già assicurato adesso, ci sono già delle, diciamo, vincoli di tipo deontologico tali per cui l'anonimato viene assicurato. La gratuità, che era poi il problema che veniva sollevato anche a proposito della circolare De Gan, quando ci fu quella richiesta di passare la prestazione al Servizio Sanitario Nazionale, la gratuità comporta appunto che sia lo Stato a diventare gestore di questo. In Parlamento potrebbe anche passare la pubblicità, tra virgolette, di queste pratiche, però a prezzo, cioè la non ammissibilità al privato, anche se con qualche difficoltà, perché abbiamo una resistenza oggi proprio di mentalità, e soprattutto radicali e così via sarebbero contrari a far passare questo principio, ma io credo che si potrebbe anche far passare la gratuità, però se viene intesa come prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, c'è dubbio. L'anonimato va già da sé perché fa parte della deontologia professionale. Discorso sulla morte. Certo, è vero, il comportamento medico molte volte è ancora inadeguato e è anche discriminante, ma il medico spesse volte ha paura, in mancanza proprio di una legge che dica quando si deve considerare a tutti i fini morta una persona, e non ritengo che questo sia una semplice convenzione sociale. Certo, ci sono anche delle convenzioni sociali e tradizioni, chiamiamole culturali, con tutta un'antropologia che si è sviluppata. Indubbiamente nel passato l'arresto del cuore era la morte, oppure l'ultimo respiro era il momento in cui l'anima usciva dal corpo. Insomma, se andiamo a scavare in queste cose troviamo tante posizioni, diciamo, di tipo culturale. Ma sul piano il medico queste cose non le guarda, guarda piuttosto alla sicurezza che non ci sia qualcuno che lo imputi d'avere sospeso le cure prima della morte della persona, e quindi che sia imputabile di non aver fatto tutto fino alla fine. Ecco, questa è la verità della posizione del medico. E allora è per questo che chiede anche eventualmente una legge che certifichi in qualche modo, che ci sia un'autorità che certifichi, e queste sono le commissioni diciamo etiche per l'accertamento della morte, che certifichi che quella persona è morta indipendentemente dall'uso che si farà di questa persona, di questo cadavere, sia o no oggetto di espianto per organi. L'importante, soprattutto in questi casi, si tratta di casi evidentemente di giovani che sono nei reparti di rianimazione, che potrebbero essere utili a fine di trapianto e che sono attaccati al respiratore automatico, che quindi hanno il cervello distrutto ma hanno ancora funzionalità cardiaca. Se sono utili per il trapianto, oggi interviene volontariamente per richiesta del direttore sanitario o del medico che assiste nel reparto di rianimazione questi casi, interviene il medico legale, eccetera, eccetera, e il giudice, e si fa la commissione etica, direi così, chiamiamola etica, per l'accertamento della morte. Dopodiché, accertata la morte, dichiarata la morte in base a tutti i sintomi, eccetera, da parte di questa commissione arriva la squadra di prelievo. Però ci sono quei casi i quali, pur essendo in queste stesse condizioni, non serviranno mai alla donazione di organi. E allora il medico non sospende le pratiche di ventilazione di un cadavere, non sospende le pratiche di ventilazione forzata di un cadavere, sin tanto che non si ferma il cuore, pur essendo perfettamente consapevole agire per sollecitare la donazione d'organi, perché ha sempre davanti questa ipotesi, non perché non creda nella morte della persona, perché sa benissimo molte volte che quella è morte, ma perché non si fida. Ecco, questa è la realtà, è la posizione attuale della medicina, almeno in Italia, e credo che lo sia anche in altre parti del mondo. La questione che veniva sollevata, come mai ci sono pochi rappresentanti della Chiesa nell'ambito dei comitati etici, è giusta. Nell'ambito del Comitato Nazionale, il Comitato Nazionale è un organo, appunto, che si diceva prima, nasce dallo Stato, e nell'ambito delle indicazioni anche l'unica presenza dell'ecclesiastico è sotto forma di cattedratico di bioetica, di una cattedra riconosciuta nelle università italiane. Non è lì perché ha una tonaca, ma è lì perché è cattedratico di bioetica. Facciamo più cattedre di bioetica in Italia, riconosciute ufficialmente dalla legge, e avremo certamente più rappresentanti anche nei comitati. La cultura del dono, io so benissimo che sarebbe, diciamo, il gesto più eroico, più diciamo, segnalato dalla Chiesa. Non ci sono state difficoltà quando si è trattato di donare la cornea, questo lo sappiamo tutti, è nato così un po' la posizione della Chiesa di disponibilità, Pio XII, il discorso famoso, eccetera, eccetera. È rimasta perplessa la Chiesa quando si è mano a mano andati avanti a demolire il corpo prendendo tanti organi, prima il rene, benissimo, il rene vada, non c'è problemi, sono due, anche se fosse vivo per caso ancora. Quando si è cominciato a parlare di cuore, si è vista anche, e allora è nata un po', diciamo, la perplessità. Però anche qui, insomma, io sono convinto che o la Chiesa in qualche modo accetta pienamente la posizione scientifica della morte, cioè la distruzione del cervello, dico, più di questo non si può dare. Con questo non si vuol dire che l'anima sta nel cervello, magari nell'interno come Cartesio dell'epifisi o così via, però non c'è dubbio che l'organo di coordinamento è il tronco, diciamo, cerebrale. E c'è la controprova in 50 anni che nessuno che ha avuto il tronco decerebrato, direi così, completamente, si sia risuscitato, nel senso vero della parola. Quindi evidentemente possiamo ammettere un miracolo, ma non lo possiamo ammettere sotto forma di normalità. Ecco. E allora, se si accetta questo, io credo che una parola di incoraggiamento anche agli scienziati, fermo rimanendo la condanna di ogni personalismo del trapiantatore, tutto questo fa parte dell'effimero, anche se purtroppo incide molto sull'opinione pubblica, quella di vedere alla televisione 3 trapianti di cuore nello stesso giorno. Sono tutte cose negative sotto l'aspetto, ma questo non deve, secondo me, impedire una sana e giusta valutazione dell'essenza, diciamo, del problema. E io sono convinto che questo sia il vero pensiero. E allora bisognerebbe però, se si vuole avere la donazione vera, libera, spontanea dei giovani, bisognerebbe insegnare ai giovani che cos'è la donazione e in qualche modo condurli a dimostrarsi donatori. Basta una tesserina, basta una certificazione, una dichiarazione spontanea che uno tiene nel portafoglio, allora si risolve il problema della donazione. Se si rimane nell'ambiguità è evidente che poi le forze, non tanto ostili, ma vi posso garantire, le forze a caccia di voti del Parlamento sono quelle che poi ostacolano anche la donazione di organi, perché è evidente che l'emotività viene facilmente destata da questa posizione ed è più facile raccattare, nonostante tutto, un voto di diniego che non un voto di donazione, insomma.